programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E lo confermo ogni volta, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non ci sono proprio più le mezze stagioni. Se malauguratamente, per esempio, come nel mio caso, ci si ammala di influenza a luglio, com'è possibile? Colpa del caldo, i 40 gradi che ci sono in questo caso a Milano, o dell'aria condizionata che poi si incontra ogni 2x3 in ufficio, nel negozio, nella macchina di qualcuno? Con chi me la devo prendere, con l'aria condizionata? Tra l'altro, sull'aria condizionata poi c'è una cosa molto interessante da dire. Dice Carmelo Lauricella, che non ho il fisico dalla parte tecnica, ma c'ho un fisico prestante, che insomma, adesso naturalmente in radio non si può descrivere, ma in ogni caso, quindi questo mi dice che c'è qualcosa che non va, insomma. E non ci sono più le mezze stagioni perché è un caldo torrido. Abbiamo passato uno degli inverni più freddi in assoluto, piovosi che non se ne poteva più. Poi non è che c'è la mezza stagione, c'è un passaggio progressivo, no, caldo infinito, bollente. Poi chiederemo al colonnello Giuliacci se in qualche modo qualche refrigerio c'è, anche se io devo dire molto sinceramente, sembrerò un po' matta, io amo il caldo, 40-45 gradi all'ombra, che ci posso fare, odio l'aria condizionata, ma qualcuno dice che insomma in certi casi salva la vita. E poi non ci sono più le mezze stagioni anche per un altro motivo: per come la Terra non è rispetto a quello che pensavamo, cioè non è che non è più, ma è diversa da quello che pensavamo. Pensate che secondo una ricerca inglese dell'Università di Cambridge la Terra è più giovane di quanto si pensasse, almeno, sentite un po', sarebbe un sollievo per chiunque sapere di essere molto più giovane di quello che è, ha almeno 70 milioni di anni in meno. Secondo questa ricerca britannica sarebbe nata 4.467 miliardi di anni fa anziché 4.537, fate un po' voi il calcolo, prendete appunti. E poi cosa possiamo dire, cos'è anche forse la notizia che più dimostra questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? Bene, un paese cattolico al 91% come l'Argentina, primo paese sudamericano a fare una scelta del genere, ha detto sì, il Parlamento ha detto sì ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Poi ci sono tante altre notizie anche che riguardano l'Italia invece in controsenso rispetto a questa notizia, però direi che insomma è un fatto, piuttosto un segno dei tempi. Ma adesso bando alle ciance, vi ricordo il numero verde per le vostre telefonate per raccontarmi anche questa settimana qual è secondo voi la notizia della settimana e quali commenti volete fare ai fatti che si sono susseguiti in questi giorni. Liberamente sceglietene una. 800 24 0024, numero verde 800 24 0024. Però che cosa faccio? Ogni sabato naturalmente coinvolgo un ospite che io chiamo opinionista estemporaneo per dare un po' la sua angolazione, il suo punto di vista magari originale sulle cose della settimana. E questa settimana, signore e signori, ospite... Alfio Bardolla. Buongiorno. Eccolo, aspettavo la tua risposta. Vivo Alfio. Alfio Bardolla, sì. Che è un financial coach, oppure potremmo tradurre, come mi hai tradotto tu, Alfio, un allenatore finanziario. Ecco. Sì. Un allenatore finanziario. Però, diciamo, vorrei uscire da ogni ipocrisia in questa puntata e dirvi che ho invitato Alfio Bardolla, al di là per avere un'angolazione diversa, no? Ho mai avuto un allenatore finanziario a dire la sua sui fatti della settimana, ma il vero motivo per cui io ho invitato Alfio Bardolla in questa puntata è il titolo del suo libro, che è praticamente una promessa di cui io spero di essere la prima beneficiaria. Me l'ha promesso, mi ha promesso che mi insegnerà proprio a raggiungere questo obiettivo. È una promessa proprio conclamata. Il titolo del suo libro, pubblicato da Sperling & Kupfer, si intitola Milionari in 2 anni e 7 mesi. Eh sì, è una promessa abbastanza forte. Quindi io ho contato, Alfio, che verso febbraio 2013 dovrei, se inizio da adesso a seguire i tuoi consigli, dovrei diventare... Ho puntato più in maia. Sul fatto che non superiamo il 2012. Mi sa che mi sia un po' comoda questa cosa. Non è che hai previsto appunto 2 anni e 7 mesi, così nel 2012 sparisce tutto. Io la promessa l'avevo fatta, però d'altronde causa di forza maggiore, la Terra è scomparsa. Alfio. Ma allora, questo è il mio terzo libro, quindi sul denaro, che è un po' come per dire non ci sono più le mezze stagioni, perché credo che non ci sarà più la classe media. E quindi, che già da un po', no, si dice che sta scomparendo, che è livellata, che è sgretolata, polverizzata. Com'è? Ma perché le persone o diventano sempre più ricche o diventano sempre più povere. Una bella consolazione, devo dire. Sì, quindi c'è un effetto clessidra. Quindi la parte in mezzo, come in quasi tutti gli stati del mondo, perché l'Italia era un'eccezione il fatto che avesse una classe media particolarmente ampia. Gli Stati Uniti è una grossa classe ricca, è una grossa classe di poveri, i paesi del Sud America idem, tanti paesi, sono veramente molto, molto pochi paesi che hanno una grande classe media come quella che c'è in Italia. Tra l'altro, Alfio, è proprio dato di questi giorni dell'Istat, in Italia ci sono 8 milioni di poveri, a pagare sono i più giovani e soprattutto al sud. Ecco, tanto per avere un dato scientifico. Ecco, il problema secondo me non è tanto che si è poveri, ma quanto che non c'è cultura finanziaria. Quindi in Inghilterra è stato introdotto dall'anno scorso un corso che è proprio educazione finanziaria nelle scuole, perché le persone in qualche modo devono diventare un po' responsabili del loro denaro e sviluppare tre abilità. Anche per evitare i futuri speculatori, quelli che hanno portato a questa crisi generale, questo crollo mondiale. Se mi permettete, io non sono così d'accordo che la crisi deriva dagli speculatori. Credo che le crisi derivi dai parco buoi, nel senso che derivi proprio dalla scarsa informazione finanziaria. Non sono, vi faccio un esempio pratico, non sono gli speculatori che fanno aumentare i valori delle case, sono le persone che non sanno come si valutano le case, le comprano a prezzi sempre più alti, e persone che non lo fanno di mestiere. Quindi la stessa cosa funziona con i fondi di investimento, c'è gente che fa investimenti allettata da delle performance assolutamente non realistiche, e questo è causa dell'ignoranza, non il fatto che ci siano gli speculatori. Ma diciamo tutte e due forse, un po' e un po'? Ma sì, nel senso che perché ci sono speculatori vuol dire che c'è uno che c'è un'asimmetria informativa, cioè c'è differenza di informazione tra una persona e l'altra. E questo c'è un po' in tanti campi, e questo forse è uno dei più pericolosi. Le banche tipicamente vivono di asimmetria informativa. Senti Alfio, scusa, prima ti avevo interrotto, dicevi giovani finanzieri che crescono a scuola, educazione finanziaria, che cosa dovrebbe, quali sono i tre insegnamenti che dovrebbe trasmettere? Ma la scuola, in questo caso in Inghilterra, hanno creato questa cosa per evitare l'eccessivo indebitamento delle persone, perché le persone si fanno allettare da nuove carte di credito, da nuovi finanziamenti e via dicendo, e poi fanno come quello che io ho detto, una specie di ruota del cricettino, si svegliano al mattino, salgono su questa ruota e corrono come dei matti per dover pagare i debiti e non poi per poter vivere in realtà con una vita normale. L'Italia in questo caso era un caso atipico, perché l'Italia è un popolo di grandi risparmiatori, nonostante si risparmi meno, però comunque è una massa. Questo ci ha un po' salvati. Sì, mentre gli inglesi, gli americani hanno proprio questo problema, che loro già da subito, per potersi permettere le scuole, fanno dei grandissimi debiti e partono indebitati per parecchie decine di migliaia di dollari. Invece noi studiamo un po' meno, ma per adesso abbiamo ancora la scuola statale che funziona abbastanza, vediamo un po' con i tagli, a cosa si addiviene. Alfio, quindi intanto questa promessa, hai proprio un consiglio fra i tanti, insomma, il tuo libro è bello denso, ma uno in particolare, qualche cosa l'hai già lanciata lì, qualche suggerimento? Ma la prima cosa è di sviluppare cultura, cioè di sviluppare formazione, di imparare come il denaro viene regolato, e la cosa importante è di impararlo da chi in qualche modo ha ottenuto risultati. Quindi da te, per esempio. Sì, uno potrei essere io, ma possono essere anche un sacco di altre persone che hanno ottenuto risultati nel campo in cui voglio specializzarmi. Quindi voglio diventare bravo e far soldi con gli immobili. Devo trovare qualcuno che ha fatto i soldi con gli investimenti immobiliari. Voglio farlo nel trading o nella borsa. Devo trovare uno che l'ha fatto in quel modo, di modo che mi può far vedere qual è la sua strada. È un po' come se volessi imparare a sciare. Vado a cercare un maestro di sci, non vado da un direttore di banca che non è ricco e non mi dà le informazioni da ricco, quindi è abbastanza, se ci pensate è una cosa di buon senso, però è abbastanza vero, la qualità dell'informazione che noi riceviamo poi determina la qualità dei risultati che otteniamo. Bisogna anche un po' fidarsi di questi insegnanti. Ma no, ma secondo me non bisogna fidarsi, secondo me bisogna vedere, andare a vedere e provare, la cosa è buona. me la sento ok, credo di poterla fare, la cosa non è buona, non me la sento ok, non la faccio. Alfio, dimmi una cosa, adesso prego. Passando dal tuo libro Milionari in 2 anni e 7 mesi, che poi appunto mi hai detto un po' sotto banco, mi spieghi altri segreti, che se, così se non mi vedete più tra 2 anni e 7 mesi avete capito che ho preso altre strade, ma invece una notizia della settimana che ti ha colpito in modo particolare? Ma purtroppo mi colpiscono le notizie finanziarie, quindi non credo. Deformazione professionale, e che cosa? La manovra anche che ti ha colpito? Ma no, più che altro il fatto che sia fallita la prima, l'unica società quotata in borsa è fallita, che era il Viaggio del Ventaglio. Sì, è vero. So che magari non è, però mi ha fatto abbastanza specie, anche perché ho parecchi compagni di scuola che ci lavoravano dentro, e quando un'azienda fallisce è sempre un po' un danno per tutti. E ci sono anche parecchi turisti che avevano prenotato le vacanze, una bella fregatura anche per loro. Questo è un grossissimo problema, difatti ho letto di class action che vogliono partire, sì, dicendo, per la tutela di queste persone, ed è veramente un problema sociale. Io magari ho investito i miei ultimi soldini per fare le vacanze, poi non riesco, diventa un incubo. È una bella sciagura. 800 24 00 24, le notizie sono tantissime anche questa settimana. Voi che ne pensate? Che commenti volete fare su un fatto di questi giorni? Io, prima di passare all'altra angolazione, siamo in democrazia e quindi vorrei sentire anche da un altro pianeta, come sempre, il pensiero sui fatti della settimana, ma vorrei chiederti, andiamo un po' Alfio Bardolla sulle cose serie, no? Sulla politica. Secondo te l'aria condizionata è di destra o di sinistra? Perché il ministro della salute Fazio questa settimana in un'intervista radiofonica ha detto che l'aria climatizzata è di destra perché va verso il progresso e il consumo. Quindi volevo sapere da te. Credo che sia una battuta, no? Come spesso, no, ci sono cose che non sono assolutamente bipartisan. Quindi per te è di centro, insomma, un po'. Sì, l'aria è un po' da tutte e due parti. Un po' democristiana? Ma può essere, perché c'è un po' da sempre, viene fuori quando si è in difficoltà e via dicendo. Senti, va bene. Allora io direi, mentre voi pensate a che notizie volete commentare di questa settimana, il numero verde 800 24 00 24, diamo voce anche a dimensioni extraterrestri. Riflessioni da Marte. Qui da Marte questa volta vorrei partire rassicurando gli umani che non tutto per forza cambia. Non è vero che vale sempre il detto che non ci sono più le mezze stagioni. Qualcosa resta così com'è. Gli umani del resto, nella loro vita precaria, mutevole, inequivocabilmente caduca, hanno anche bisogno di un punto fermo, di qualcosa che dia un segno di continuità. Ebbene, posso dirvi che quassù da Marte ho potuto verificare che il numero di donne uccise in Italia, anche nell'ultima settimana, non abbassa assolutamente il trend degli ultimi anni. È un trend assolutamente continuativo, come si dice anche per i capi d'abbigliamento, no? Che si vendono un po' tutto l'anno. Anzi, negli ultimi giorni, anziché una donna uccisa ogni 2 giorni, ce n'è stata quasi una al giorno. Quindi tranquilli che tutto resta immutato, anzi rafforzato, così come l'indifferenza delle istituzioni. Insomma, delle certezze per fortuna ci sono. Non dà invece certezze il tappo messo sulla perdita di petrolio nel Golfo del Messico, sapete? Come quando si cerca il tappo giusto, no, per riporre la bottiglia di vino aperta, no? Ne provi uno, ne provi un altro, prima che trovi quello giusto passa un po' di tempo. In ogni caso, il ministro Brunetta invece è addivenuto al numero più o meno definitivo di auto blu circolanti in Italia, 90.000, per la modica spesa di 4 miliardi di euro l'anno. E quelle più blu di tutte sono proprio quelle dei politici, tanto da essere proprio blu blu, lo dice lo stesso ministro. Circa 90.000 le auto blu divise in blu blu quelle dei politici. Blu, le mille bolle blu, blu, le per intorno a me, blu, le mille bolle blu che volano, e volano, e volano. E via, magari le auto blu fanno anche un po' di colore. Pensate se fossero, per esempio, tutte bianche, no, le auto. E comunque sia, si respira nella penisola italica, diciamo, un'aria piuttosto pesantuccia. Ma dare finalmente un segnale di speranza in questo clima sfittico e un po' claustrofobico ci pensa il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, che dice: l'andrangheta scomparirà quando scomparirà l'uomo dalla terra. Insomma, in alto i cuori. In questo caso, quindi, tanto per sfatare i luoghi comuni, finché c'è vita umanoide non c'è speranza. A chi rivolgersi dunque per prevedere con maggiore sollievo e gratificazione le magnifiche sorti e progressive dell'italico paese? Ad analisti? No. A opinionisti, sociologi, editorialisti? No. A tuttologi pressapochisti, astrologi professionisti? Nemmeno. Rivolgiamoci invece al polpo Paul o Paul, così alla tedesca, quello sapete che ha indovinato gli esiti delle partite dei mondiali di calcio, no? Non ne ha sbagliata una. Saprà dunque dare il polipo Paul un responso, un non qualunquista, diciamo, un responso non qualunquista sul bel paese. Che dici, tentacolare Paul? Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della vita, chi lo sa? Sempre con voi Roberta Giordano fino alle 15 insieme per fare come sempre il bilancio dei fatti della settimana, anche con questi giorni tantissimi, nonostante siamo in un'estate ormai conclamata, caldissima, andiamo verso agosto, ci sono ancora un po' di giorni prima di agosto, i fatti continuano a susseguirsi, anzi una particolare concentrazione devo dire in questi giorni, no? dal caso Cosentino alla nuova P2 cosiddetta P3, ce ne sono veramente in abbondanza. 800 24 00 24 per i vostri commenti. Con me come opinionista estemporaneo oggi c'è Alfio Bardolla, che è financial coach, allenatore finanziario e autore di bestseller. L'ultimo libro pubblicato da Sperling & Kupfer si intitola Milionari in 2 anni e 7 mesi, i pilastri della ricchezza. Qualche suggerimento ha dato, ma poi magari se c'è tempo lo spremeremo meglio. Vorrei cominciare a sentire le vostre telefonate. C'è Bartolomeo da Genova. Genova. Sì. Pronto? Bartolomeo. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Niente, il fatto a cui volevo riferirmi è la P3. Sì. Può interessare? Penso di sì, che dici? Mi sembra un fatto abbastanza centrale della settimana. Te può interessare a te, Bartolomeo? No, assolutamente sì. Io ho fatto una vita, diciamo, io ho fatto l'imprenditore, faccio ancora l'imprenditore. Diciamo che la P3, non so se poi il vero nome tecnico è P3 o è stata una come dire, una trovata di comunicazione per dire questa è la prossima. Penso di sì, penso che siamo stati un po' noi giornalisti, sì. No? Tra inquirenti e giornalisti, poi si deve dare pure un nome a qualcosa, no? Che deve definirsi. Ma suona sì. Molto bene, comunque le posso dire una cosa. Io come dire, faccio ancora l'imprenditore, ho fatto imprenditore in Italia. Una volta usava dire che se cerchi di fare l'imprenditore con più di 8 zeri, cioè 9 zeri, cioè con i miliardi, ora sarebbero i milioni, qui in Italia devi comunque fare i conti con questo tipo di contatto. Questa è la verità. Questa è la verità, le posso fare degli esempi? Ne faccio uno eclatante. Sì. La manutenzione dell'aeronautica militare italiana è nelle mani della Fiat. Io ho provato e altri miei colleghi piccoli imprenditori hanno provato ad entrare nella manutenzione dell'aeronautica militare italiana, che pure utilizza motori americani, turbine, e lei può immaginare quanto può costare la manutenzione, è nelle mani della Fiat. Però qui Bartolomeo mi sembra che non ci sia nulla di losco, di segreto in ma tutto questo. Ma che sia losco, glielo spiego subito. I motori dei nostri elicotteri sono della General Electric, per esempio, oppure sono della Pratt & Whitney. Perché la GE o la Pratt & Whitney non fornisce direttamente il servizio? Perché deve passare da quella porta. Ma le potrei fare altri esempi. I nostri, come dire, grandi gruppi come Enel ed Eni, lei provi ad andare a Roma, come dire, provi a fare una fornitura che sia tantino più grande di quella che è una fornitura di qualche centinaia di migliaia di euro. Cioè 100.000 euro. Lei assolutamente, se vuole entrare, deve fare i conti con... che si chiami P3 o si chiami P4, questo non è importante. In questi casi forse, Bartolomeo, si tratta, non so, di posizioni dominanti, di monopoli, se si possono definire in questo. Non ci vedo la setta segreta, il comitato d'affari che vuole condizionare le istituzioni. Io vedo un po' una cosa diversa, no, Bartolomeo? No, la signora, no, guardi. No, non mi chiamare signora, Bartolomeo. Chiami Roberta o se vuoi essere formale, dottoressa, Roberta, ma non mi chiamare signora. La storia è molto semplice. Io lavoro in Svizzera, sì, va bene? Sì. In Svizzera tu fai una fornitura ad un grande gruppo. Questo grande gruppo chiama 10 ditte, fa una gara su internet che si chiama, adesso la dico a te in italiano, asta alla rovescia, che è un po' come eBay alla rovescia, però parliamo di milioni di euro. Tu sei qualificato, c'è un'azienda seria qualificata, entri nel giro ufficiale, ci sono 10 aziende, viene fatta una gara, ripeto, su internet, va bene, un'asta alla rovescia, chi offre meno prende l'ordine. Qui in Italia tu devi entrare, se vuoi fare certi contratti, a compromessi, sempre, con un ambiente che è politico, mafioso, commerciale. E c'è continuità tra questi tre ambienti. Chiamaci B2, chiamaci B3. Se tu vuoi fare l'imprenditore, qualcosa deve rimanere piccolo, perché se diventi grande, gioco forte, devi saltare sul carro. glielo dice che ha fatto 40 anni in questo mondo. Bartolomeo, ti ringrazio per questa testimonianza. Poi se ci fossero altri imprenditori, imprenditrici, insomma, che hanno esperienze uguali o diverse, il numero verde 800 24 00 24 a vostra disposizione. Cosa ne pensi, Alfio Bardolla? Ma penso che ci sono dei business che sono legati a quello che viene chiamato in americano lobbying. E quindi se tu vuoi fare la manutenzione devi avere nel tuo business plan qualcuno che sia a Roma a cercare di avere delle relazioni. E purtroppo adesso non so se sia giusto o sbagliato, perché fortunatamente io non ho business di questo tipo, però fa parte di questo tipo di mestiere, cioè il lobbying. In America il lobbista è quello che va e paga ufficialmente i politici per ottenere favori legislativi o cose di questo genere. In Italia si chiamano tangenti. Preferisco il sistema americano, cioè che almeno uno mette una dichiarazione dei redditi e dice: guarda che mi pagano per prendo dei soldi da questa società, da quell'altra società o da quell'altra ancora società. Così tutto diventa più trasparente. Ma dimmi una cosa, Alfio, a proposito del fatto che il ministro Brunetta faceva un po' la sua ricerca, aveva promesso qualche settimana fa che sarebbe addivenuto alla cifra più o meno definitiva delle auto blu in Italia, che sappiamo, no, nella spesa esagerata, 4 miliardi e mezzo. Tu che cosa ci faresti con quei, visto che sei un financial coach, con quei 4 miliardi e mezzo l'anno che ci faresti se si dovessero risparmiare? Dipende, allora, se fossero miei o se fossero per utilità sociale. Facciamo utilità sociale a questo punto, visto no, che... ma no, perché Brunetta dice, guarda, Brunetta dice, si potrebbero spendere almeno la metà di quei soldi per le auto blu. Guarda, sono che faresti con 2 miliardi? Ma io onestamente quello che cercherei di fare è di migliorare la formazione degli insegnanti, nel senso che noi siamo in una scuola dove purtroppo il sistema scolastico è ancorato a dei sistemi veramente molto vecchi, sia quello delle medie che elementari che quello anche delle superiori dell'università. Cercherei di fare qualcosa per migliorare e per sviluppare con le nuove tecnologie, con le nuove competenze, con le nuove conoscenze che sono venute fuori in questi ultimi decenni, le competenze dei professori, perché alla fine un professore formato bene, un insegnante che è un esempio per i ragazzi, pagato adeguatamente, perché purtroppo in questo momento l'impiego da professore mi sembra un po' un impiego di ripiego, perché come fai a vivere con quegli stipendi che gli danno? Cercherei di puntare su questo, perché loro sono quelli che hanno in mano il futuro poi del paese, che sono i ragazzi che in questo momento stanno crescendo. Quindi sentirei al numero verde, scusa Alfio, 800 24 00 24 Michele dalla provincia di Vicenza. Poi c'era Claudio da Bellaria Igea Marina, che era cascato alla linea telefonica, poi ci recuperiamo. Claudio, Michele, buongiorno. Buongiorno Michele. Ho appena sentito la testimonianza di quell'imprenditore che non riesce a entrare dentro determinati giri se non sei grosso, molto grosso. O grosso, comunque. Guarda, io non sono un grosso imprenditore, sono un assicuratore. Provo a partecipare di una principale compagnia assicuratrice italiana. Provo a partecipare alla gara di un ente pubblico del mio paese. Sì. E le gare nella mia compagnia funzionano così: siccome abbiamo più compagnie all'interno dello stesso gruppo, il primo agente che manda la richiesta gli viene data la possibilità di partecipare alla gara. L'ho mandata immediatamando appena l'ente pubblico ha promosso il bando. In provincia di Vicenza. Sì. E allora la compagnia mi risponde: no, c'è già un'altra agenzia che l'ha fatta la richiesta. Ma scusi, com'è possibile? Dico, appena è arrivato un secondo fa la richiesta, com'è possibile? No, mi dispiace. Allora indago e vedo che alla fine, parlando con il mio responsabile, mi vengo a sapere che no, la mia compagnia stava già preparando il bando e le condizioni di assicurazione, perché il mio collega era nel partito che aveva sostenuto questo nuovo sindaco e quindi ha ricevuto una soffiata prima del tempo, che non aveva già la soluzione e la risposta. Non è che stiamo parlando di un piccolo comune, neanche di pochi soldi, però io non faccio né nomi né cognomi per motivi, perché non è quello, però il sistema Italia funziona così. Cioè, io non posso partecipare a un bando perché tanto lo danno già a quello che tanto era dentro, aveva aiutato il sindaco o era nello stesso partito o ha fatto campagna elettorale. Un ente pubblico, cioè questo è il sistema, gli enti pubblici funzionano più o meno tutti così. Mi dispiace, perché sono triste di questa cosa, ma purtroppo è la verità. E ha ragione questo signore, dice: o fai i patti o non ci salti sopra. Io preferisco stare giù allora. Mi spiace Michele, mi spiace sentire con quanta amarezza, insomma, chi avrebbe le risorse, le capacità si sente schiacciato e anche un po' beffato da un sistema Italia che effettivamente, inutile negarlo, c'è. Tra l'altro leggevo fra gli editoriali di questa settimana sul Corriere di qualche giorno fa, sulla pagina milanese, Gian Giacomo Schiavi, il titolo era Voglia di pulizia, che dice che sembra che questa sia la stagione in Italia delle convenienze, dei clan e delle cordate, che lascia un pericoloso vuoto di civismo che si chiama rassegnazione. Che ne pensi, Alfio Bardolla? Ma penso che se uno vuole mettersi in questi tipi di business deve per forza fare i conti con queste cose, sono abbastanza normali, quindi... Le altri commenti, se devo, o mi adeguo al sistema e cerco di farne parte, oppure faccio qualcos'altro, ma non mi posso lamentare perché un sistema funziona così. Non si può cambiare, dice, è un'utopia? Ma secondo me ci sono allora, il giusto sarebbe cambiarlo, però poi bisogna anche stare attenti alle cose utopiche, perché se io e te siamo amici, abbiamo fatto la scuola insieme e via dicendo, è chiaro che probabilmente preferisci me piuttosto che prendere un terzo che si è iscritto a un bando o a caso. Quindi però utopicamente sarebbe giusto, ma non sto dicendo che se, però a un certo punto uno deve anche fare i conti con la realtà, e la realtà è che certi business funzionano per relazione, e quindi o crei le relazioni e la tua abilità di creare relazioni fa parte delle abilità che tu hai nel gestire il tuo business, oppure tu sei fuori da quel business. Un po' le tribù, il paese delle tribù, l'Italia. 800 24 00 24, finalmente Claudio da Bellaria, Igea Marina. Sì, Roberta, buonasera. Buonasera Claudio, vai al mare tu, vai al mare. Beh, no, io vedo il mare, sono in casa mia, vedo il mare, perché io abito in riva al mare. Che cosa splendida, invidiabile. splendido, che pensieri, d'inverno, che però. Pensieri ti vengono, Claudio, guardando il mare, quindi, in questo momento? Ma io almeno io lo vedo tutto l'anno. Ti stai girando verso il mare e non ti sento più, Claudio. Rigirati verso il telefono. Ecco. No, dicevo che per me è naturale. Cioè, io sono milanese, però. Non sono, io vengo, sono 20 anni che abito qui. Perciò, beh, la casa l'ho sempre avuta. Si sta meglio lì o a Milano? No, per l'amor di Dio, sto meglio in Emilia Romagna io. Ah. No, non faccio, non torno più, non tornerei più a Milano, nemmeno dipinto sul muro. Claudio, quindi la notizia della settimana che volevi commentare qual è? Sì, a me è stato il discorso del debito pubblico, l'aumento, che siccome il panorama che avete descritto adesso non è stato descritto, quello italiano, giusto? Sì. Ed è una tristezza, una vergogna, cioè più che una tristezza, forse rispecchia anche il governo che abbiamo, forse. Ma credo che vada anche al di là, Sì, sì, ma quando si vedono i ministri che dicono che non sanno chi gli ha pagato la casa. Insomma, siamo a quei livelli da... Cioè, a me sembra di essere in una commedia, cioè non è... Cioè, è umiliante, ecco, questo è quello che io penso. Perciò, per tutte queste brutture, tutte queste ruberie, tutto quello che avviene, ecco che il debito pubblico in Italia è quello che è. Siamo aumentato di 63 miliardi, mi sembra, no? Adesso la cifra 63. Precisa non me la ricordo, non vorrei sparare i numeri. Detto, perché io ho sentito Radio 24, perché io ascolto solo Radio 24, bravo. Perciò non è che ascolto bene alla salute. Tante radio. Tanto è vero che c'è una cosa, però ci sono alcuni programmi che se ci fosse la Roberta sarebbe un'altra cosa. Grazie. Perché lei riesce, tu riesci, Roberta, anche nelle cose, dove nelle notizie, dove o nelle discussioni, dove non c'è... Non sei d'accordo, magari, però col tuo metodo, col tuo sistema, sei una grande. Complimenti, Roberto. Roberta Giordano sempre con voi a fare un po' un bilancio insieme delle notizie della settimana, mi aiuta come opinionista estemporaneo in questa puntata Alfio Bardolla, che abbiamo detto allenatore finanziario, si dice così in termini economesi, finanziesi. No, italiani, c'è una traduzione dall'americano financial coach. Dicevo, no, stavo passando appunto al termine anglofono financial coach, insomma, detto così fa un po' più effetto, però poi per tradurlo e farlo capire a tutti, allenatore finanziario, che ha scritto, a parte altri due bestseller, Milionari in 2 anni e 7 mesi, i pilastri della ricchezza. Senti, molto sinteticamente, poiché il cuore della trasmissione, tu sai, sono i fatti della settimana. Dacci un altro suggerimento proprio. L'altro era rivolgersi sempre a chi ne sa più di noi. Poi investire in formazione, un altro consiglio per diventare in 2 anni e 7 mesi milionari? Vuole può essere? Ma allora, bisogna sviluppare delle abilità specifiche, nel senso che c'è una teoria che dice che qualunque abilità viene sviluppata con circa 10.000 ore di attenzione, quindi qualunque tipo di cosa voglio fare, e credo che sia abbastanza importante dedicare del tempo al denaro, quindi ritagliarsi il tempo per guardare le proprie finanze, fare i calcoli, tipo zio Paperone che si mette lì, conta uno per uno. Sì. Ecco, però questo da una parte sembrerebbe una cosa ridicola, però se io so da dove parto e soprattutto so dove voglio andare, anche se magari passo un sacco di tempo fuori rotta, bene o male c'ho l'idea di dove andare, cioè se voglio fare 1 milione di euro, e quello è il mio obiettivo, e parto da uno stipendio base, probabilmente dovrò incominciare a pensare, come gli americani chiamano, out of the box, quindi fuori dal box, fuori dalla nostra consuetudine, per dire ok, ma come faccio ad arrivarci? Cioè, se c'è un sacco di gente che ha fatto 1 milione di euro, com'è possibile che anche per me ci sia la possibilità di fare questa cosa? E quindi questo pensiero, e mettere questo ragionamento per iscritto, soprattutto con numeri, incomincia a dire ok, devo crearmi, io ad esempio nel mio libro consiglio di crearsi delle entrate automatiche, cioè entrate che non dipendono dal proprio lavoro. E quindi come faccio ad esempio a crearmi una nuova entrata automatica? Tipo come Pinocchio mettere le monete sotto l'albero di ulivo nel campo dei miracoli? No, no, però ad esempio, senza andare in quella cosa, ad esempio io ho scritto 3 libri, ho venduto più di 100.000 copie e per me quella è una piccola entrata automatica. Ho creato un gioco da tavolo e quella è un'altra piccola entrata automatica, ma per una persona normale può essere scrivere un ebook, magari pubblicarlo, quindi imparare come si fanno queste cose, come si fa pubblicità su internet. Insomma, ho capito che ci vuole comunque anche molto ottimismo, Alfio Bardolla. Sentiamo se è ottimismo, che pensieri hanno invece le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde 800 24 0024 sui fatti della settimana, per esempio Francesco da Trento. Sì, buongiorno. Si sta freschi almeno a Trento, Francesco? Come? Si sta freschi almeno a Trento? Ma in realtà in questo momento sto viaggiando, qui sono in pianura e qui non fa più tanto fresco. Io avevo un commento su una delle notizie sulla P3. Sì. E c'era stato un commento che questi meccanismi sono fisiologici in qualche modo. E io sono abbastanza d'accordo con questa cosa, cioè nel senso che le collusioni sono inevitabili. Quello che probabilmente manca però è dell'utilizzatore finale, che dovrebbe avere un certo servizio di una certa qualità, la possibilità di lamentarsi, cioè nel senso, nel momento in cui io scelgo di fornire il servizio avvalendomi di una certa persona che per motivi miei può essere valida o meno, ma decido di sceglierla, devo essere anche responsabile poi del servizio che fornisco. Cioè, se questo viene meno, è chiaro che è impossibile che ci sia del feedback, e almeno questa è la mia esperienza quotidiana. Molto spesso probabilmente sei un imprenditore, diciamo, anche tu, Francesco? In che senso? Che fai di mestiere, se posso chiedertelo? No, io non faccio l'imprenditore, faccio il ricercatore, per cui ho un altro, diciamo, forse un'altra prospettiva. Ecco, quello che penso, che esistono, diciamo, anche delle, cioè l'effetto delle collusioni è noto ed è anche ben studiato. E in altri paesi in realtà ci sono anche persone che studiano questo di mestiere e cercano di creare dei meccanismi che impediscono le collusioni. Però è un approccio moderno che probabilmente la nostra politica ancora non conosce. Grazie Francesco, quindi non abbiamo gli anticorpi, dice Francesco in questo senso. Mi viene in mente, Alfio Bardolla, di collegare 2 cose questa settimana fra le tante. Leggevo fra gli editoriali quello sulla Stampa di questi giorni di Michele Brambilla, che dice che ormai nessuno scandalo fa più scandalo, no? Ci si è assuefatti, c'è una specie di indifferenza, rassegnazione. Poi scopro che in America c'è un dibattito accademico molto forte che vorrebbe in qualche modo annullare la teoria sulla gravità di Newton. Quindi significa che non c'è più gravità, che nessun caso è grave, quindi la gravità è un'illusione, non esiste, non c'è nulla di grave, tutto relativo, forse? Ma diciamo che ci sono i giornali senza notizie non venderebbero, no? Quindi cadrebbe anche una parte dell'economia che viene da qualcuno chiamata un po' l'economia della paura, del terrore, nel senso che esiste un'economia proprio nel mantenere sotto paura o sotto il terrore, come se ci fosse un grande occhio che governa tutto. Pensi che i giornali facciano questo, quindi i media? Ma no, credo che il giornale sia un business, quindi dire ragazzi va tutto bene, una figata, è bellissimo, ci amiamo tutti, non fa vendere copie, quindi creare dei casi che poi si sgonfiano come il ghiaccio al sole è abbastanza tipico di un'economia come la nostra, quella occidentale, e quindi sono abbastanza d'accordo che ormai tutto il rumore non fa più, quando c'è tanto rumore non c'è più niente che fa rumore più del resto, quindi però è tipico perché ormai l'informazione è così diffusa e ci sono così tanti sistemi per accedere all'informazione che un eccesso di informazione non è più informazione. Naturalmente mi riferivo alla forza di gravità, ma mi veniva da collegarla a questa cosa. Però a proposito di, adesso io non vorrei essere, però dice Alfio Bardolla, questa è il concetto, insomma, di fare paura, di vendere, no, i giornali attraverso... Ma no, in realtà aspetta, no, perché io guardavo la prima pagina del giornale oggi, no? Prima pagina del giornale, giornale ovviamente notoriamente non antigovernativo. Ebbene, a proposito di... un pochino spaventarsi, in primissima pagina una foto gigantesca, un primissimo piano del giudice Marra, quello che sarebbe sotto inchiesta, no? Il presidente della Corte d'Appello di Milano, sotto inchiesta nella cosiddetta P3, un grande primo piano con la sua faccia e questo riporto incredibile che ha, e c'è proprio l'inchiesta, cioè da Cesare a Marra, la sindrome del riporto. E cosa si scrive sotto? Luigi Mascheroni, ardita terza via tricologica fra la calvizie e il trapianto chirurgico, il riporto nell'immaginario lombrosiano è indice di doppiezza sfuggente, di subdola untuosità, di sottile ipocrisia. Mi sono un po' spaventata quando mi sono trovata questa faccia così di botto stamattina, comunque insomma. Ecco, ci dice Giorgio De Luca che tra poco abbiamo anche dei lumi su... Subito li dobbiamo avere? Subito? Capiamoci su che cosa ci aspetta adesso nelle prossime ore, non posso dire nei prossimi giorni, ma... perché devo dire che probabilmente in questo periodo chi è veramente felice? Chi è che fa business secondo voi? Non è difficile, eh? Non è difficilissimo. Carmelo Lauricella, che dicevi dalla parte tecnica? Meteorologi, ma no, che diventano ricchi dicendo che fa caldo. I venditori di condizionatori, di aria fresca, di aria condizionata. Giorgio De Luca dice anche i gelatai, è vero, per carità, è il loro periodo felice, questo, il boom. Però, Colonnello Giuliacci, cioè, ma quanto saranno felici i venditori di condizionatori in questo momento? Ah, buongiorno, un saluto. Ciao, Colonnello. Sì, beh, direi sensato, sono molto felice. A noi, ovvio, non ce ne viene in tasca nulla. Nulla. Non è che per ogni condizionatore va un euro in tasca del colonnello Giuliacci, no? Sei mai visto? Appunto, bene, è chiaro che l'argomento del giorno, come non può essere che vi posso dire, guardate, ancora ci aspettano altri 7-8 giorni di caldo, quindi l'unico consiglio che posso dare è resistere. Insomma, come disse, altro non possiamo fare. Unica nota positiva qual è? Che un po' oggi sul nord Italia, poi domani sulle regioni adriatiche e lunedì sulle regioni meridionali il caldo si attenuerà, per cui l'apice del caldo è quello che abbiamo avuto ieri e che avremo oggi, no? Però poi nei giorni a venire fino a giovedì il caldo sarà un po' più sopportabile, ci sarà ancora ma più sopportabile, quindi è una notizia positiva anche questo, non vi possiamo togliere completamente il caldo ma un po' ve l'abbiamo tolto. Insomma. Senti, ma tu Colonnello, ne senti parecchi come me, che tanti li guardano come una specie di extraterrestre, a me piace il caldo, piace proprio il caldo. Piace? Il caldo, a me piace. Ah, il grande caldo, allora... sono contento invece per quelli come a Roberta, a quale piace. Sai, Colonnello, che in questo però periodo ti attiri molti strani, attenzione, lo so, che la maggior parte delle persone, soprattutto quelle che hanno superato i 50 anni, no, diventano senz'altro nel 90% dei casi insofferenti, non resistono al caldo, soprattutto se lì. Senti, ma non solo le persone, sai, Colonnello, che fa talmente caldo anche in Norvegia, uno si immagina Norvegia, sì, no, certo, freddo, certo. Che un alce nei giorni scorsi è entrato in un negozio di alimentari e si è diretta verso il banco dei surgelati, non so cosa c'è, qualche ghiacciolo. È stato, anche lui si è dato ai gelati. Hai visto? Va bene, colonnello. Tanto abbiamo, siamo passati dal freddo freddo al caldo caldo, qui non ci sono più le mezze stagioni, tu me lo confermi come sempre, vero colonnello? Beh, in questo caso possiamo dirlo, ma sai, l'estate è chiaro che è più calda rispetto a una volta, e quindi la più calda degli ultimi 30 anni, è vero? Com'è? La più calda degli ultimi 30 anni, questa? Senz'altro, senz'altro, voglio dire, l'aumento sul riscaldamento del pianeta è chiaro che si ripercuote anche un aumento delle temperature estive, e quindi le ondate di caldo sono più frequenti, più intense rispetto al passato. Una volta, 20 anni fa, superare 35 un qualcosa di eccezionale. Oggi è metà dell'Italia ai 34-35 gradi. E avremo modo di parlare anche di questi cambiamenti climatici. In ogni caso, comunque sia, colonnello Giuliacci, un sereno fine settimana a te. Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori. Riprendiamo allora con i vostri commenti sulle notizie di questa settimana. Il numero verde è 800-24-0024. Sempre Roberta Giordano con voi, opinionista estemporaneo di oggi, che ha appena scritto Milionari in 2 anni e 7 mesi, e Alfio Bardolla, allenatore finanziario. C'è Roberto, dicevamo, da Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno Roberto. Ma volevo fare un commento sulle auto blu. Sì. C'è qualcosa che non mi quadra. 4 miliardi di euro l'anno. L'anno. 60-90 mila auto, questo sì, è quello che dice il ministro. Sì. La premessa è che come fa un ministro a non sapere quante auto sono in capo allo Stato, questa è già una cosa che mi sbalordisce abbastanza. Però se fossero anche 90 mila, quindi il numero più alto, sono 45 mila euro l'anno. Siccome io ho qualche auto di servizio... Blu? Come impresa. Ho fatto una scelta, perché evidentemente i miei dipendenti o prendo delle auto a noleggio, oppure prendo delle auto che le metto a disposizione. L'auto a noleggio non mi conviene. Non mi conviene per una serie di motivi. Intanto per la disponibilità immediata, che non c'è. In secondo luogo perché ci sono dei vincoli sul guidatore, chi guida deve essere vincolato all'auto e non può guidare nessun altro, c'è tutta una serie di fatti, ovviamente ultimo ma non ultimo è il costo, che è altissimo. Di conseguenza, fatta la premessa che 45.000 euro sono una cifra enorme, perché un'auto non è che si brucia in un anno, ovviamente c'è l'autista, poniamo che l'autista sia completamente in capo all'auto, quanto vale questo autista? Parliamo di autisti, piloti di Formula 1, quindi che hanno dei contratti milionari, o parliamo di impiegati pubblici che probabilmente hanno uno stipendio di 1.100-1.200 euro netti al mese, che fanno 23-24 mila euro lordi l'anno? E gli altri 20 mila che cosa sono? Ogni anno si cambia una... C'è la manutenzione? Io la manutenzione delle mie auto la conosco, saranno 3.000 euro. Senti, è possibile che ci siano i sedili in pelle umana, magari, in questi No, anni? È possibile che sia una balla? È possibile che sia una balla demagogica? Perché quando Bardolla, Alfio, dice l'eccesso di informazione non è più informazione, dice una cosa sacrosanta. Ma quello l'ha detto il ministro, non è che l'hanno detto i giornali. No, Alfio Bardolla ha detto poco fa. Sì. Quando c'è un eccesso di informazione, in genere, non c'è più l'informazione. Io vorrei aggiungere qualche cosa, quando c'è un eccesso di informazione manipolata o comunque corretta nei concetti fondamentali non c'è più l'informazione, perché sempre ragionando nel mio piccolo, io ho una trentina di dipendenti, non è che abbia la Fiat, no? Ma 3 auto di servizio ce le ho. Ora, vi immaginate, siccome nelle auto, a parte che insomma che non, il ministro non riesca a dare una definizione delle auto, quelle per i boiardi di Stato si chiamano blu-blu? Blu-blu, sì, abbiamo sentito prima del mio nome. Si chiamano blu chiaro, come si chiamano le altre? Perché il punto è che di quei 4 miliardi di euro che dice il ministro, probabilmente è forse come la distribuzione del reddito in Italia, cioè il 90% del reddito in mano al 10% delle persone. Io credo che potrebbe essere la stessa cosa, perché guardi che come fa a togliere a un comune di 4-5 mila abitanti l'auto di servizio? Perché alla fine arriviamo a questo. Vuol dire che nel momento in cui il comune di Riano, dove vivo io, deve avere la possibilità di andare in provincia a presentare dei documenti per il piano regolatore, cosa fa? Chiama un noleggio con conducente? Va a affittare una macchina alla Avis? Che cosa fa quel comune lì? Roberto, ho capito, è una questione. Ha capito, cioè sì, quell'informazione sì, lì, che informazione è? Ho capito. Che notizia è una boiata demagogica. Non ma demagogica perché? Cioè, che interesse ha il ministro Brunetta comunque a dire che il governo spende, lo Stato, infinitamente più soldi per dire che lui riesce a risparmiare? Forse quello vuoi dire, Roberto? Non ho capito sì, bene. Sì, perché, senta, guardi, io ho delle attività che riguardano anche gli affari con degli enti. No, però Roberto, perdonami, sarebbe un po' troppo lunga, perché mi dicono che dobbiamo un pochino stringere, siamo un po', ecco, tra pochi minuti dobbiamo lasciarci. Quindi io darei spazio a questo punto, sapete che non può mancare la mia linguista preferita, Valeria Della Valle, della Sapienza di Roma. Cara Valeria, eccoci qua. Eccoci qua. Valeria, direi che soprattutto su una delle principali notizie di questa settimana, le dimissioni da sottosegretario all'economia di Cosentino, che però resta coordinatore del PDL in campagna. Dimissioni, questo termine, ce lo analizzi, Valeria? Subito, velocissima. Allora, la parola dimissione naturalmente viene come sempre dal latino, la sua origine, cioè la parola latina dimissionem, però la cosa strana è che noi tutto quello che ha a che fare con le dimissioni o con il dimettere, il verbo, il sostantivo, non ci è arrivato direttamente dal latino ma dal francese. E così abbiamo cominciato a partire dal Settecento a usare le espressioni dare, presentare, le dimissioni sempre al plurale, oppure se si vuole usare un linguaggio più burocratico, rassegnare le dimissioni, oppure le dimissioni del governo, o fino ad arrivare a quelle che sono le dimissioni di un malato, no? Quando un degente viene fatto uscire dall'ospedale. Sì. Allora, il significato è chiaro, credo, a tutti quelli che ci ascoltano, e per chiudere sempre con un po' meno amaramente su questo argomento, visto tutto quello che abbiamo sentito fino adesso, ricordo ancora una cosa, cioè sì, che appunto la parola è stata usata nella lingua italiana solo a partire dal 1766. Perché qualcuno si è dimesso già allora? Solo da allora. Quindi per sorridere un po' possiamo dire che dare le dimissioni in Italia, e quindi nella lingua italiana, non è un'abitudine frequente, e persino la parola l'abbiamo dovuta prendere, ereditare dalla lingua francese. Vedete la cultura quanto incide. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a voi, ciao. Ciao Valeria. E adesso, visto che ci mancano, vediamo quei 12 secondi, Alfio Bardolla, come chiusura, io ti volevo chiedere come dissipare in qualche modo un contrasto tra due comuni dell'Abruzzo, di un gruppo di oche che sono andate da un comune e poi le hanno riportate nell'altro, l'altro non le vuole, però c'è poco tempo. Dammi tu una conclusione a oggi, una conclusione che ti viene in mente con le cose dette, con quello che stai pensando, tu che sei autore di Milionari in 2 anni e 7 mesi. Ma che bisogna imparare un po' a negoziare, mi sembra. Una delle capacità fondamentali delle persone è l'abilità di negoziare. Non so se è una chiusura degna, però fa parte un po' dalla mattina. Purché negoziare non significa scendere anche a certi compromessi un po' bassi. Il compromesso va bene, non oltre, sotto un certo livello, diciamo, giusto? No, negoziare vuol dire capire l'altra parte, quali sono i veri interessi, e cercare di capire quali sono i tuoi, trovare un punto d'accordo senza dover per forza abbassarsi a compromessi o cose di questo genere. Però diciamo che è un'abilità che sicuramente va sviluppata, esistono un sacco di libri per farlo, e credo che sia una delle cose fondamentali nella nostra vita imparare una cosa di questo tipo. Grazie Alfio Bardolla, perché appunto grazie. In trasparenza e in onestà, e da Roberta Giordano, come sempre, vi aspetto sabato prossimo. Intanto, sereni orizzonti a tutti.